già la sento. Già la sento morire, però è calma, sembra voglia dormire. Poi con gli occhi lei mi viene a cercare, poi si toglie anche l'ultimo velo, anche l'ultimo cielo, anche l'ultimo bacio. Forse colpa mia, forse colpa tua, è così. Sono rimasto a pensare, ma la vita cos'è? Tutto niente, forse neanche un perché. Con le mani lei mi viene a cercare, poi mi stringe, lentamente mi lascia, lentamente mi stringe, lentamente mi cerca. Forse colpa mia, forse colpa tua, è così. Sono rimasto a guardare. Chiamano amore, e lo chiamano amore, e lo chiamano amore, una spina nel cuore che non fa dolore. È un deserto questa gente con la sabbia in fondo al cuore. Tu che non mi senti più, che non mi vedi più, avessi almeno il coraggio e la forza di dirti che sono con te. Ave Maria, Ave Maria. Forse colpa mia, forse colpa. Così, sono rimasto così, sono rimasto così. Già la sento che non può più sentire, in silenzio se n'è andata a dormire, è già andata a dormire.